Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, un saluto e una benedizione a tutti voi. Grazie per esservi sintonizzati anche questo mese al nostro appuntamento attorno alla parola di Dio. Continueremo quest'oggi la lettura continua degli Atti degli Apostoli. Siamo arrivati al capitolo 4, quindi chiedo a quanti sono nella possibilità di farlo, di prendere un'edizione della Bibbia e di aprirla davanti a sé in modo da poter seguire con semplicità e con più praticità, ecco, quello che andremo insieme a meditare. Chiedo l'aiuto dello Spirito Santo perché in questa nostra riflessione, comunicazione, lo Spirito mi aiuti proprio a rendere viva questa parola, in modo che possa scaldare i cuori, non solo la testa. L'obiettivo di queste nostre trasmissioni è quello sì di scavare dietro la parola di Dio, di cogliere il valore di alcuni passaggi, alcune istituzioni, alcune parole, però l'obiettivo principale è quello di favorire l'incontro tra la parola e la vita. Se non avviene questo incontro tra la parola e la vita, ognuno di noi tornerà poi dopo la trasmissione alle proprie attività, ma sempre senza quella fiammella in più che invece la parola di Dio può dare, può comunicare. Come sapete, la nostra puntata si divide sempre in due parti. C'è una prima parte che sono i primi 45 minuti in cui condivido con voi le mie riflessioni sul capitolo che prenderemo in esame, quindi sul capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, e c'è invece una seconda parte che è dedicata ai vostri interrogativi o alle vostre brevi riflessioni. È un modo proprio per camminare insieme attorno all'unica parola che deve rimanere la vera protagonista di questa ora e mezzo che trascorreremo insieme. Bene, il capitolo 4 degli Atti degli Apostoli casca bene, perché ieri noi abbiamo celebrato come Chiesa la solennità della Santissima Trinità. Bene, questo capitolo si struttura attorno ai tre aspetti della festa di ieri: un primo momento che è dedicato al Padre, un secondo momento che è dedicato a Gesù, suo figlio, come unico punto di salvezza, e vedremo ciò che questo provoca all'interno della prima comunità cristiana, e un terzo momento che è dedicato allo Spirito Santo. Ecco, cercheremo poi alla fine di capire come quanto noi andremo a condividere si può poi declinare, concretizzare nella nostra vita di tutti i giorni. Cominciamo dal primo momento. Il primo momento sono i primi quattro versetti del capitolo 4. Lo leggiamo insieme. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Bene, la scena inizia in questo modo. Cerchiamo un attimo di ricostruire il contesto. Il capitolo 3 ci era stato raccontato l'episodio di Pietro e Giovanni che salivano al Tempio. Mentre stavano salendo al Tempio, alla porta del Tempio incontrano uno storpio e nel nome di Gesù danno a questo storpio il dono della guarigione, punto tale che lo storpio entra nel Tempio saltando, danzando e lodando Dio. Avevamo detto, quando avevamo riflettuto sull'episodio dello storpio, che questo storpio, oltre ad essere una figura fisica reale che Pietro e Giovanni hanno incontrato, nella mente del narratore, quindi di Luca che racconta gli Atti degli Apostoli, è qualcosa di più. Luca prende un episodio che è successo e ne fa un episodio simbolico. quello storpio alla porta del Tempio altro non è che l'immagine nel racconto lucano del popolo di Israele. Popolo di Israele che solo nel momento in cui incontra il Cristo veramente non rimane più sulla soglia del Tempio, che è il suo punto di riferimento, ma entra in contatto con quel Dio che da sempre cerca ed entra in un dinamismo di vita che gli è proprio, senza troppi esercizi, perché tutti i tesori, tutti i doni già li possiede come popolo di alleanza, ma gli manca l'incontro con Cristo. Con l'incontro con Cristo può accedere pienamente al volto del Padre. Ora, questa guarigione suscita scalpore. Nel momento in cui Pietro e Giovanni cominciano a spiegare ai presenti, che accorrono stupiti di fronte a quello che è successo, il significato del miracolo che è accaduto. Notiamo quindi che il miracolo porta la prima comunità, la comunità cristiana nascente, su una strada che non era stata prevista. E questa strada ha subito a che vedere con il mistero della sofferenza. Pietro e Giovanni, nel momento in cui fanno vivere la risurrezione a un malato, devono essere disponibili a vivere su di sé il mistero della morte e della passione. È come se il mistero pasquale deve sempre operare in una sorta di circolo continuo. E la prima reazione che viene nei confronti di Pietro e Giovanni dà il via alla prima ondata di persecuzioni. La prima ondata di persecuzioni che ha un soggetto ben preciso. Noi assisteremo negli Atti degli Apostoli a una serie di ondate di persecuzioni e dobbiamo stare attenti da dove vengono queste persecuzioni, perché vengono tutte da gruppi diversi. La prima ondata di persecuzione che tocca Pietro e Giovanni viene dai Sadducei. Notate, non sono i farisei, sono i Sadducei che li aggrediscono. E li aggrediscono su due aspetti. Il primo aspetto è perché insegnano al popolo. E il secondo aspetto è perché proclamano la risurrezione dai morti, che Pietro e Giovanni rendono visibile con la risurrezione fisica di quest'uomo che era storpio fin dalla nascita. Ora, come mai per i Sadducei, quindi per le classi sacerdotali, che tra l'altro sono ben scandite, sopraggiunsero, diceva il testo al versetto 1, i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio, che era parte delle classi sacerdotali, e i Sadducei. Quindi le persone che intervengono per bloccare Pietro e Giovanni sono delle persone ben precise, ben identificabili. I punti di aggressione riguardano proprio l'identità dei sacerdoti. I sacerdoti erano l'unico riferimento del popolo, l'unico punto di mediazione tra il popolo e Dio. Il fatto che Pietro e Giovanni si mettano a parlare di un Gesù facendone l'emblema concreto della risurrezione, mettendolo sul livello di Dio, è chiaro che porta uno spostamento di mediazione. Il mediatore non è più il sacerdote, ma diventa Cristo. È chiaro che di fronte a questo i Sadducei sono aggressivi. Secondo aspetto è la risurrezione. Quindi tutti i Sadducei, noi lo sappiamo già dal Vangelo, erano coloro che si opponevano all'idea della risurrezione, anzi ironizzavano sulla fiducia della risurrezione, e su questo erano divisi anche con i farisei, c'erano due scuole di pensiero molto diverse. Ma poi il discorso della risurrezione a loro dà fastidio perché distrugge praticamente quella che è la mediazione umana tra l'uomo e Dio, che è garantita dalle classi sacerdotali. Ora, di fronte a questo, come reagiscono i Sadducei? Arrestano Pietro e Giovanni, cioè loro obiettivo è bloccarli, non farli parlare, bloccarli, metterli in carcere in modo da togliere chi in questo momento sta gettando in ombra il loro magistero, il magistero dei Sadducei. È curioso, fin dall'inizio, fin dal momento in cui Pietro e Giovanni vengono chiusi in carcere, la parola manifesta la sua fecondità. Il testo dice che molti di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Si passa da 3.000, che era il numero che avevamo lasciato in precedenza, prima della guarigione dello storpio, e la comunità cresce a dismisura, 5.000, il che ci dice già che nella mente dell'Evangelista l'esperienza che i discepoli stanno facendo, rivivendo su di sé la passione, morte di Gesù, è già risurrezione. Una risurrezione che concretamente si è manifestata nell'uomo storpio fin dalla nascita, ma che già si estende a tutti quanti ascoltano la parola di Dio e insieme alla parola di Dio ascoltano la testimonianza di quell'uomo che era storpio fin dalla nascita. Perché all'inizio dicevo che questa prima scena ha a che fare con il primo soggetto della Trinità, ha a che fare con Dio. Perché quello che i sadducei, di cui i sadducei sono preoccupati, è proprio la visione di Dio che viene trasmessa da Pietro e Giovanni. Il fatto che Pietro e Giovanni insistano sulla risurrezione di Gesù e portino, annuncino una guarigione nel nome di Gesù, significa che Dio si è reso visibile in questo Gesù. Quindi quel Dio che è lontano e che comunque è in un certo senso separato dall'uomo, alla fine nel dialogo, nel discorso di Pietro e Giovanni non viene più presentato così lontano, perché se è un Dio che scende con i poveri, se è un Dio che ha patito fino alla morte di croce, assumendo su di sé la maledizione che quel tipo di condanna comportava, bene, tutto questo manda in tilt, sbriciola tutte quelle che sono le categorie comuni con cui l'ebraismo pensava Dio. E quindi era necessaria una rivisitazione globale del principio di fede, una rivisitazione che non negava certamente quella che era la rivelazione antico-testamentaria, ma andava alle sue radici. E ora, questo non è così semplice. Noi stessi lo vediamo quando qualcuno ci porta alla radicalità della nostra fede, della fede cristiana. Guardate che se questo lavoro è autentico, non è che attira molti applausi. Accanto agli applausi ci sono anche molte resistenze. Perché? Perché è scomodo. Accogliere la fede nella sua radicalità è scomodo e scomodante. Quindi questa è la prima scena. La prima scena ci presenta quindi la reazione dei sadducei di fronte a questo insegnamento di Pietro e Giovanni che mette in qualche modo in discussione il volto di Dio, così come questo era conosciuto. Lasciamo un breve stacco musicale ora in modo che ciascuno possa rileggere brevemente questi quattro versetti, dopodiché entreremo nella seconda parte. La seconda parte dove vedremo che al centro della scena viene subito posto Gesù, viene subito messa la figura di Gesù. Bene, dopo l'arresto ci viene raccontato subito il processo nei confronti di Pietro e Giovanni. Lo possiamo leggere nei versetti 5-12, lo leggiamo insieme. Il giorno dopo si riunirono a Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi. Il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli. Con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Allora, notate subito in questa fase che descrive il processo con l'accusa e la difesa, notiamo subito i protagonisti che vengono messi in scena e ancora il narratore tiene a sottolineare che siamo di fronte sostanzialmente alla prima aggressione delle classi sacerdotali. Se non fosse stato sufficientemente chiaro nel versetto primo, lo è subito nel versetto 6, perché dice: si riunirono a Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, e poi dicono: il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti, più di così, cioè vengono menzionati tutti i sommi sacerdoti, i sacerdoti importanti per nome, e poi quanti appartenevano alle famiglie di sommi sacerdoti. Cioè è chiaro che la questione proviene essenzialmente dalle classi sacerdotali e la domanda è precisa: con quale potere o in nome di chi voi avete fatto questo? In altre parole, ai sacerdoti sta a cuore capire chi li sta scalzando nella loro autorità, nella loro autorevolezza e autorità di fronte al popolo, perché chi è che dà potere? Il potere in ciò che riguarda le questioni di guarigione, in ciò che riguarda il rapporto con Dio, veniva dalle classi sacerdotali, non poteva venire da altri. Allora, con quale potere hanno agito Pietro e Giovanni? E soprattutto, in nome di chi? Teniamo presente che il concetto del nome è molto di più di quello che noi possiamo avere oggi. Quando parliamo del nome, per noi il nome è ciò che identifica una persona, punto, basta. Nell'Antico Testamento e anche nelle pagine del Nuovo Testamento, dire il nome di una persona significa evocarne l'identità, sottolinearne la personalità. Tanto vero che il nome di Dio era impronunciabile, perché il nome di Dio rappresenta la sua essenza. Chiamare una persona per nome significa chiamare in causa tutta la sua personalità. Ora, i discepoli, i sacerdoti, vogliono sapere dai discepoli il nome di chi, cioè chi è che è in causa, chi è il soggetto di fronte a questo. E la risposta di Pietro, colmo di Spirito Santo, è molto chiara. Pietro mette al centro la figura di Gesù e lo mette al centro in un modo che era praticamente inconcepibile per coloro che ascoltavano allora, perché dice: prima di tutto mette in secondo piano se stesso, Pietro mette in secondo piano se stesso e Giovanni e dice: sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù il Nazareno che voi avete crocifisso, che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Bastava dire questo, ma Pietro continua: questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e diventata la pietra d'angolo, quindi la pietra che non solo unisce i popoli, ma permette il compimento di una costruzione, ma l'elemento più forte della proclamazione di Pietro è il versetto 12. in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. E qui Pietro fa un'affermazione di fede enorme che ha a che fare con la seconda persona della Trinità. Dire credo in Gesù significa riconoscere che Gesù è il principio della salvezza. In nessun altro c'è salvezza. Non c'è salvezza nella legge, non c'è salvezza nei sacrifici di cui i sacerdoti erano in qualche modo i custodi. L'unica salvezza passa attraverso Gesù. Ora, per capire questo, è necessario rileggere un salmo, perché queste parole che Pietro dice ai sommi sacerdoti presenti sono delle parole che rileggono in qualche misura il Salmo 118. Quindi prendete un attimo l'edizione della Bibbia, chi di voi è in possibilità di farlo, e rileggiamo questo Salmo. È un Salmo che non ha tanti versetti, ha 29 versetti, però è un Salmo molto esplicativo di questo capitolo, perché ci fa capire come Pietro attribuisca a Gesù quello che il Salmo attribuiva a Dio. Prima di tutto è un Salmo, il Salmo 118, che procede per ripetizioni quaternarie, cioè alcuni concetti sono ripetuti quattro volte e ogni volta, ogni brano, ogni quaterna, si può dire che sottolinea l'unicità del Signore. Ora, questa unicità del Signore è applicata a Gesù da Pietro e Giovanni. Il Salmo inizia così: rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne il suo amore è per sempre. Dicano quelli che lo temono, che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Quindi la cornice di questo salmo, la porta d'ingresso, è l'amore eterno di Dio per il suo popolo. Un amore che lo porta poi ad essere attento dal primo all'ultimo dei suoi figli, quindi dai sommi sacerdoti allo storpio che è alla porta del Tempio. Poi inizia la seconda quaterna. Nel pericolo ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è per me, non avrò timore, che cosa può farmi un uomo? Il Signore è per me, il mio aiuto, io guarderò dall'alto i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo? È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti? Per quattro volte viene ribadita l'unicità del rifugio. Per chi si trova in pericolo, l'unicità del rifugio è una sola, il Signore. Ora Pietro e Giovanni si trovano in una situazione reale di pericolo, l'arresto. Potrebbero essere tentati di appoggiarsi, insomma, i sacerdoti, di trovare un punto di compromesso in modo da essere liberati. No, il loro annuncio è chiaro e deciso. Parlano con parresia perché sono convinti che l'unico punto di riferimento per loro è il Signore. Segue la terza quaterna. Tutte le nazioni mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitte. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitte. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore li ho sconfitte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Notate anche in questo caso l'unicità del punto di riferimento, il Signore. Possono esserci tutte le nazioni attorno, però l'unico punto di riferimento è il Signore, nel nome del Signore li ho sconfitte. Arriviamo alla quarta quaterna, tutta centrata sulla destra del Signore, come il Signore manifesta la sua potenza. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti, la destra del Signore ha fatto prodezze, la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodigi. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Ecco, la salvezza si manifesta negli interventi potenti di Dio, segnati dalla destra. Ora, dopo questa grande professione di fede, l'orante si rivolge ai sacerdoti, e qua Pietro e Giovanni stanno parlando con i sacerdoti, si rivolge ai sacerdoti chiedendo di aprire per sé le porte del Tempio. E sentite cosa dice, sono questi i versetti del Salmo che vengono citati da Pietro. Però ecco, per capire la citazione di Pietro bisogna aver presente quello che il Salmo ha detto prima, sottolineando l'unicità del Signore. Ecco cosa dice l'orante, apritemi le porte della giustizia, l'orante dice ai sacerdoti, vi entrerò per ringraziare il Signore, questa è la porta del Signore, per essa entrano i giusti, ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, l'orante chiede ai sacerdoti di aprire le porte in modo che il Tempio sia il luogo in cui si sperimenta la salvezza, quello che Pietro e Giovanni stanno dicendo ai sacerdoti. Non è solo l'annuncio dell'unicità di Gesù nelle parole di Pietro e Giovanni, c'è un invito attinto al Salmo 118 in cui viene chiesto ai sacerdoti di aprire il cuore perché anche loro possano sperimentare la salvezza. E il Salmo si chiude con la risposta dei sacerdoti nel Salmo 118, che purtroppo nel capitolo 4 non avverrà così. I sacerdoti rispondono dicendo, benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore, il Signore è Dio, egli ci illumina, formate pure il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Quindi la provocazione di Pietro e di Giovanni e i Sadducei è quello di dire, bene, apriteci le porte e invitateci in questo corteo dove non entra solo Pietro, Giovanni e lo storpio guarito, ma entra anche il Signore come unica persona in cui c'è salvezza, in nessun altro nome c'è salvezza. Vedete come il discorso di Pietro e Giovanni alla luce del Salmo 118 diventa veramente luminoso, no? Diventa veramente chiaro. Come reagiscono i sommi sacerdoti a tutto questo? Lo ascoltiamo nei versetti da 13 a 22. 13 a 22 ci viene detta la reazione. Al centro c'è sempre la figura di Gesù. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi tra loro dicendo: che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome. Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. L'uomo, infatti, nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione, aveva più di 40 anni. Allora, notiamo che dopo la risposta di Pietro, l'elemento convincente, perché alla fine i sadducei sono convinti di quello che è successo, sono convinti che è successo qualche cosa di straordinario che ha a che fare con il mistero di Dio. Il problema è che non si vogliono mettere in discussione, e questo è il problema di fondo, di ogni uomo di fede. Qui aveva a che fare con i sadducei, ma questo vale per tutti, vale per me che parlo, per voi che ascoltate. Il problema è sempre questo: noi non vogliamo metterci in discussione. Troviamo mille scuse, mille modi per giustificare la nostra visione di Dio anche quando è sbagliata. Invece il Signore ci chiede di rimanere sempre in continua conversione nella nostra percezione di sua, no? Che cos'è che convince i sacerdoti al punto da dire: ok, mandiamoli fuori e confrontiamoci un attimo? Prima di tutto la trasformazione che questa parola che ha cambiato lo storpio ha operato in Pietro e Giovanni, perché per quanto però erano pur sempre persone semplici e senza istruzione, e quindi com'è che parlavano così con franchezza? Quindi c'è una trasformazione personale. A questa trasformazione personale se ne aggiunge una seconda, la trasformazione dello storpio, e mica avevano a che fare con un bambino, aveva più di 40 anni, dice il testo, e quindi se lo storpio è stato guarito e se c'è stata una trasformazione radicale della sua vita, e questo significa che quello che Pietro e Giovanni annunciano è vero. Ma poi c'è un'altra cosa ancora: li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Non dimentichiamo che nel momento in cui Pietro e Giovanni vengono messi in prigione, i credenti passano da 3.000 a 5.000. E quei 2.000 lì dove li mettiamo? Sono accanto a Pietro, Giovanni e allo storpio nel convincere i sadducei di quello che è avvenuto. Dai loro frutti li riconoscerete, aveva detto Gesù. Un'autentica testimonianza della parola è sempre accompagnata dalla fecondità, dalla fecondità. E noi dobbiamo veramente vigilare quando le nostre opere di bene sono sterili, le nostre opere apostoliche sono sterili, perché probabilmente anche attraverso la sterilità il Signore ci vuole far capire qualcosa, forse ci vuole purificare, forse vuole purificare le nostre intenzioni, forse vuole aiutarci a cambiare strada, a reimpostare le cose. Se voi pensate anche solo alla storia dell'Apostolo Paolo nella sua missione, a volte lui imboccava una strada e trovava tutte le porte chiuse, andava in una direzione e si ammalava, andava nell'altra e c'era l'inverno, non poteva salpare, andava da un'altra parte e lo Spirito non me lo permise. Fino a che capisce che lo Spirito lo voleva da un'altra parte. Ecco, là dove c'è la fecondità a volte è il segno, la fecondità spirituale, è il segno che il Signore, che si sta operando nel solco della volontà di Dio. E quando si opera nel solco della volontà di Dio, però, non dimentichiamo, la fecondità, simbolo della risurrezione, in qualche modo è sempre legata al mistero doloroso della passione e morte. E qui a volte, ecco, per noi magari è difficile vivere questa dimensione. Un'ultima sottolineatura legata a questo elemento centrale, no, del dibattito tra Pietro e Giovanni, i sadducei, è quello che i sadducei riconoscono, perché dicono ormai questo episodio è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Chi ha buona memoria si ricorderà che questa frase, tale e quale, era stata utilizzata in un altro contesto, al capitolo primo, quando Pietro era preoccupato di una cosa, era preoccupato del fatto che il tradimento di Giuda era diventato così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che era necessario cercare di sostituire quell'episodio in modo da cancellare quella macchia di sangue. Ora lo Spirito ha già risposto a questa preoccupazione di Pietro: il male è coperto dal bene, ciò che prima era noto e che era un episodio di tradimento e di male, ora è sostituito dalla diffusione di una parola che salva, risolleva, rilancia la vita dei suoi e porta tutte le persone a glorificare Dio. Ecco, questa era un po' la seconda parte del nostro episodio, dove dopo la preoccupazione sulla figura di Dio Padre da parte dei Sadducei, viene messa al centro la figura di Gesù come l'unica persona nel quale c'è salvezza, proclamata con parresia, cioè con schiettezza, con forza, da Pietro e da Giovanni. Lasciamo ora un altro breve spazio musicale per sentire poi come l'episodio si conclude, dove praticamente questo episodio della prima, se vogliamo dire, ondata persecutoria nei confronti di due sole persone, di Pietro e Giovanni, come tutto si conclude. Ecco, il testo si conclude con i versetti 23-31, dove ci viene praticamente detto quello che segue alla sentenza, ecco, nei confronti di Pietro e Giovanni. Leggiamo questi versetti. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio, dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide: perché le nazioni si agitano, i popoli tramano cose vane, si sollevano i re della terra, i principi si alleano insieme contro il Signore e contro il suo Cristo? Davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato con le nazioni i popoli di Israele si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Allora, notiamo, anche la finale è stupenda, perché rimessi in libertà, Pietro e Giovanni vanno nella comunità. E questo è significativo, perché l'esperienza dell'annuncio non è mai, gli Atti degli Apostoli lo sottolineano in mille modi questo, non è mai un annuncio solitario. Abbiamo visto davanti a Sinedrio, è vero che parla Pietro, ma non c'è solo Pietro, c'è anche Giovanni, procedono sempre in due, e dietro questi due c'è la comunità è il luogo della condivisione delle opere di Dio, e la comunità aiuta anche Pietro e Giovanni ad allargare l'orizzonte e a leggere le cose nell'ottica di Dio. Questo dovrebbe proprio farci riflettere: che cosa sono le nostre comunità cristiane? Sono veramente lo spazio dove io posso raccontare le opere di Dio e dove io sono aiutato a leggere, a discernere il disegno di Dio? Se la comunità non compie questo compito, la comunità rischia di essere un assembramento di persone che si ritrovano per compiere qualche rito una volta o due alla settimana. Ma la comunità cristiana non è questa, la comunità cristiana delle origini, è molto di più. È il luogo dove si discerne l'opera di Dio. E è interessante, in questi versetti si nota come dietro la riflessione della comunità c'è il Salmo 118, quindi questa base comune, ma la riflessione della comunità allarga la riflessione di Pietro e Giovanni, aprendo anche ad altri brani della scrittura, come ad esempio il Salmo 2, o ad altri momenti del popolo di Israele, dove Israele, prima di arrivare nella terra promessa, era assediato da altri popoli, che ora vengono identificati con Ponzio Pilato, Erode, le nazioni e i popoli di Israele. Come coloro che stanno assediando l'annuncio, il lieto annuncio del Vangelo. Interessante anche la preghiera che viene fatta. La preghiera non è di difendere la vita di Pietro e di Giovanni. La preghiera non è di aver salva la pelle. La preghiera è volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la parola. La preghiera è chiede la parresia dell'annuncio, stendendo la mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Cioè, la preghiera è rendere Gesù sempre più forte, sempre più chiaro, al centro della storia, un Gesù sempre più vivo, con prodigi, segni e opere, nel nome. E questa preghiera trova subito la risposta del cielo con una nuova grande Pentecoste. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti, quanti erano lì in quella comunità? Forse in 5.000 non ci stavano, però tutti quelli verso i quali Pietro e Giovanni vanno condividendo quanto hanno vissuto, tutti furono colmati di Spirito Santo e cosa produce lo Spirito? La risposta a quella preghiera perché proclamavano la parola di Dio con franchezza. Solo che adesso non c'è più solo Pietro e Giovanni, ci sono tutti che proclamano con franchezza. Quindi ai voglia i sadducei come possono arrestare tutta questa gente che porta il seme di bene, dovunque. Notiamo in quest'ultimo brano al centro c'è lo Spirito Santo, terza persona quindi della Trinità. Volendo un po' tirare le fila di questo discorso, ovviamente il nostro commento per forza di cose è stato un commento, come dire, sintetico, solo per punti fermi. Tirando le fila, dicevo che volevo accennare qualcosa sul significato, no? Della festa che abbiamo vissuto ieri. La festa che abbiamo vissuto ieri non è solo la festa del credo. Ogni domenica noi nella celebrazione eucaristica proclamiamo il credo e proclamiamo quindi la nostra fede nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo e nella Chiesa. Non è solo la festa del credo, è la festa dell'identità cristiana, perché nella Trinità noi troviamo i tre punti identitari della nostra fede che distinguono il cristianesimo dalle altre espressioni religiose monoteiste. Cominciamo dal Padre. Il Dio cristiano, il Dio rivelato da Cristo, va alla radice della rivelazione ebraica, mostrando quello che poi lungo i tempi, così nella tradizione biblica, da un lato si approfondisce, dall'altro si perde. Per cui questo Dio che a volte emerge come lontano, come il polo di attrazione, inizialmente è un Dio vicino. Ecco, la rivelazione cristiana porta Dio in mezzo ai suoi, Dio è il Dio con noi, ma il Dio con noi è così anche nelle prime pagine della scrittura, anche nella rivelazione biblica antico-testamentaria. Se noi pensiamo, qual è la prima espressione che Dio dice subito dopo la creazione? Non è bene che l'uomo sia solo. Dio è uno che non sopporta la solitudine, ha bisogno di un partner. E questo partner è l'uomo. E crea l'uomo perché ci sia qualcuno che sia di fronte a lui, quasi come paritario a sua immagine e somiglianza. E non solo, qual è la prima domanda che Dio pone nella scrittura? La prima domanda è: dove sei? Un Dio alla ricerca dell'uomo. Quindi la rivelazione cristiana, quando dice credi in Dio, non lo presenta come il Dio lontano, come il Dio che dobbiamo rincorrere, ma al contrario ce lo dimostra come un Dio alla ricerca dell'uomo. Un titolo tra l'altro di un bellissimo testo classico dell'ebraismo di Eschel, un Dio alla ricerca dell'uomo. Secondo aspetto che emerge molto bene dal brano che abbiamo commentato insieme, Gesù, credo in Cristo. Se Dio è vicino, è ovvio che è un Dio che prima o poi si sposta con la terra. Ecco allora il mistero dell'incarnazione, ciò che suscita scandalo, no? Per certi aspetti, perché l'incarnazione non è solo l'annunciazione a Maria o la nascita nel presepio. L'incarnazione è un processo che accompagna tutta la vita di Gesù e che culmina non sulla croce, culmina nella tomba, anzi oserei dire di più, culmina nella discesa agli inferi. Gesù ha abbracciato l'umanità in tutte le sue dimensioni, fino a far proprio il grido del maledetto, fino a scendere negli inferi, per dirci che non c'è inferno in cui noi ci troviamo, che non è posto, che non sia posto sotto lo scacco matto della risurrezione. E questo è un grande messaggio di speranza. Anche nel mondo contemporaneo ci sono inferni veri e propri, gli inferni delle persecuzioni in alcune parti del pianeta, pensiamo anche solo alla Nigeria, gli inferni delle guerre, pensiamo a ciò che succede in Siria o in altre terre, gli inferni delle schiavitù contemporanee, ci sono dai fatti di cronaca alle varie forme di sfruttamento che ci sono, agli abusi della creazione. Sono tutte forme di inferno che poi si ripercuotono sull'uomo, l'inferno di certe forme di depressione causate anche da ingiustizie, da ferite subite, da mancanza di lavoro. Bene, Dio, il Dio cristiano, è un Dio che si fa carne in Cristo e che scende agli inferi, scende agli inferi. E guardate che questo fa parte della buona novella cristiana, non la troviamo negli altri monoteismi. E poi lo Spirito Santo, credo nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è anche questo un principio importante della nostra fede, unica, perché ci dice che dal giorno in cui noi abbiamo ricevuto il battesimo, e quindi il dono dello Spirito, è iniziata dentro di noi un'opera di cesello. Lo Spirito è il grande artista che forma il Cristo in noi. Quindi il Cristo non è, come dire, qualcuno che ci cammina avanti e che noi dobbiamo rincorrere. No, il Cristo è vivo dentro di noi e vuole operare in noi, proprio come ci diceva il brano di Atti 4. Furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Sono loro che ora operano prodigi, è il Cristo in loro che opera prodigi, quindi questo è anche un grande messaggio, il Dio che si è fatto carne in Maria dopo la risurrezione si fa carne, diventa una sola cosa con il credente, trasformandolo in annuncio vivente, quindi dietro questo c'è la nostra identità. La religione cristiana in tal senso non è assolutamente una religione del libro. Abbiamo un libro come riferimento che è la Bibbia, ma non siamo una religione del libro. Non siamo in tal senso come l'ebraismo o come l'Islam. Siamo i discepoli del Verbo di Dio che si fa carne e che vive dentro di noi. Ecco, cari ascoltatori, queste sono un pochino le riflessioni che volevo condividere con voi in questa prima parte della nostra conversazione. Lasciamo ora uno spazio musicale in modo che quanti di voi vogliono intervenire con domande, riflessioni, lo possano fare liberamente, arricchendo così ulteriormente quanto ci siamo detti. Pronto, buonasera, con chi parlo? Salve, buonasera padre, sono Domenico e la chiamo dalla provincia di Potenza. Dimmi, Domenico. Allora, volevo chiedere se lo Spirito Santo interviene anche nei bambini, soprattutto in quelle occasioni dove gli adulti purtroppo non capiscono il dolore, che possono provare in certe situazioni i bambini. Allora, grazie Domenico per questa domanda che è un pochino difficile, difficile nel senso di esplicare nel dettaglio, di rispondere nel dettaglio, no? Certamente lo spirito agisce nei bambini. Dal giorno in cui noi riceviamo il battesimo, lo Spirito Santo agisce dentro di noi, agisce dentro di noi. Ecco come, in che modalità? Ecco, questo è difficile dirlo. Lo Spirito Santo, dice il testo, soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Di fronte alla domanda, però, forse che tu hai posto, c'è anche il tema del cosiddetto dolore innocente, cioè come la mettiamo quando uno magari subisce qualche violenza e quindi come lo spirito agisce in questo. Ecco, e qui la risposta, ecco, richiede una delicatezza, perché è chiaro che alla luce di Dio, alla luce della capacità che uno man mano matura nel rileggere la propria storia personale, lo spirito è in grado di guarire le ferite, o perlomeno è in grado di trasformare le ferite in porte che si spalancano su un futuro diverso, e ci sono tante realtà che sono prove di questo. In questo momento a me viene in mente una realtà, una comunità a cui sono particolarmente grato e anche affezionato, no? Che è la comunità dei giovani di Madre Elvira. Non a caso questa comunità si chiama Risurrezione e tutti coloro che entrano in questa comunità portano delle ferite, ferite della loro vita, ferite che a volte maturano nel contesto familiare o nel contesto delle amicizie. Ebbene, quando uno vive l'esperienza della ferita magari non riesce a elaborarla, a capirla, a comprenderla e quindi ecco. E il buttarsi in alcune dipendenze, dalla droga, alla dipendenza dall'alcol, alla dipendenza dal sesso, dal gioco. Nel momento in cui uno si mette in discussione, scopre Dio e comincia a rileggere la propria storia alla luce dello spirito, queste ferite si trasformano veramente in porte aperte. Ed è evidente la testimonianza, ad esempio, di questi giovani, di queste vite, che sono veramente vite risorte, trasformate. E allora si ripropone in questo caso l'episodio di Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni non vengono creduti solo per quello che parlano, ma perché accanto hanno uno storpio che è l'emblema vivente di questa trasformazione. Ecco, lo spirito agisce in questo modo, agisce in tutti. Come, in base alle differenze fasce di età, ecco, questo è un po' più difficile dirlo. Grazie Domenico per la tua domanda. Pronto? Buonasera, sono Lello. Sì, da dove chiama? Bene, Da Avellino. mi dica. Senta, quando il Signore, no, il Signore Dio praticamente ha creato l'uomo, ha fatto su di lui un progetto a lungo termine, diciamo, ecco, ha fatto sull'uomo un progetto a lungo termine. Ora io vorrei sapere da lei, questo progetto a lungo termine che ha fatto il Signore sull'uomo, secondo lei finirà bene o finirà male? Grazie. La ringrazio Lello per questa domanda che mi provoca un pochino un sorriso, perché praticamente noi tendiamo sempre a vedere Dio ovviamente, questo vale anche per me, con i nostri criteri umani. Per cui questo Dio che crea l'uomo con un progetto a lungo termine fa sorridere, perché Dio non crea l'uomo con un progetto a lungo termine. Dio crea l'uomo con un progetto a eterno, senza termine, Siamo creati per essere parte della vita di Dio, non per un progetto a medio, a breve o a lungo termine. Quelli lo fanno i gestori di un'azienda. Dio, grazie al cielo, non è uno che gestisce un'azienda, ma è un padre che cammina con i suoi figli. E quindi il disegno della creazione è un disegno eterno, l'eterno. Quella che è la vita su questa terra ha un termine. Ma la vita su questa terra è un passaggio che rientra, come dire, in un percorso molto, molto più ampio, che trova il suo compimento nella vita eterna. Quindi quale sarà il compimento di tutto questo? Ma il compimento è la piena comunione con Dio, il compimento è l'eternità con Lui. Come sarà? Beh, ce lo racconteremo quando saremo di là e spero, ecco, di trovarci. Sono sicuro che lei ci andrà, ma magari, ecco, non sono sicuro di arrivarci io. No, sicuramente ci ritroveremo tutti di là e allora vedremo com'è questo bel progetto che non ha termine e è a tempo indeterminato. Grazie, Lello, per la tua domanda. Pronto? Buonasera, sono Gabriele da Prima. Buonasera. Senta, le volevo chiedere... a proposito delle manifestazioni dello Spirito Santo, sì. Queste manifestazioni così eclatanti di cui appunto che lei appunto ha citato, quindi queste stanze che si riempiono di rumore, o la stessa Pentecoste, così, e quindi anche un segno molto anche di esteriore della presenza dello Spirito Santo, non solo un qualcosa di interno a noi stessi. Sì. Volevo sapere, ad oggi ce ne sono ancora, abbiamo delle testimonianze di manifestazioni così evidenti dello spirito? Non so, io ho un po' l'impressione di no, però può essere anche che mi sbaglio, ecco. La ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Gabriele per la tua domanda, tra l'altro dal rumore di sottofondo immagino che lei fosse in macchina, quindi mi dai l'occasione anche di ringraziare tutti coloro che condividono le nostre conversazioni mentre ad esempio tornano dal lavoro, mentre viaggiano. Questo arricchisce la comunità di Radio Maria e arricchisce anche tanto noi che parliamo quando intervenite in diretta mettendo a disposizione così il vostro tempo e il vostro ascolto. Forse per una domanda del genere ci vorrebbe uno come Salvatore Martinez, il fondatore del rinnovamento nello spirito, però tento anch'io nel mio piccolo di dare una risposta. Effettivamente quando noi leggiamo gli Atti degli Apostoli al capitolo 2 notiamo che la Pentecoste è accompagnata da una serie di segni. I segni eclatanti sono il vento forte con il rombo come di vento che si abbatte gagliardo, quindi il vento, le lingue come di fuoco, quindi che si posano, si dividono e si posano su ciascuno dei presenti, quindi non c'era problema di illuminazione perché il giorno di Pentecoste le luci abbondano sulla testa di tutti i presenti, e infine il terzo segno è questa capacità di comunicare, di parlare nella lingua del destinatario. Quindi Luca cerca di esprimere con questi codici comunicativi il vento, il fuoco, le lingue, quella che è l'azione dello Spirito Santo. A mio avviso noi non dobbiamo tanto fermarci sul segno esterno, ma su quello che il segno esterno vuole dire. Il vento, ad esempio, dice l'inafferrabilità dell'azione dello spirito. Laddove arriva lo spirito non c'è niente da fare, si entra in qualcosa che non sai da dove viene e dove va. Quindi, primo segno che lo spirito agisce in noi è una vita senza schemi. Le nostre comunità cristiane a volte sono troppo schematizzate, sono troppo dentro gli schemini. Non si può andare avanti a forza di programmi in una pastorale guidata dallo spirito. Il programmino, il progetto, il piano, vanno bene per carità, bisogna pianificare, bisogna progettare, ma bisogna lasciare lo spazio anche alla creatività dello spirito. L'esempio di attualità più eclatante ce l'abbiamo sotto gli occhi, perché è chiaro che la Chiesa sta vivendo la novità dello spirito, no? in questo momento, e ti porta in luoghi scomodi, ti porta a punti di attenzione che magari 2 anni fa non c'erano. Perché? Perché lo spirito soffia dove vuole, sa cosa c'è bisogno in questo momento, però per accettare questo bisogna essere molto liberi. Ecco l'immagine dello spirito. Quindi, al di là del vento come segno effettivo di questo, che ci può stare in alcuni momenti, non dico che non ci sia mai questo, ci può stare in alcuni momenti, però al di là di questo, quello che conta di discernere quando è presente lo spirito è una vita libera. Dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà. Secondo elemento, il fuoco trasforma, il fuoco brucia, il fuoco, ma il fuoco è passione, soprattutto è passione, è vitalità, è calore. Ecco, allora una vita è cristiana calda, se c'è lo spirito, la nostra vita cristiana, una vita cristiana appassionata. Non siamo sempre, come dire, mogi, a volte le nostre, queste nostre assemblee cristiane domenicali dove si sta seduto, ci si alza, ci si inginocchia, si sta seduto, ci si alza, ci si inginocchia, ma senza quasi passione. A volte anche quando celebro, io con la comunità, noi paolini, io sono paolino, quindi noi non abbiamo molte parrocchie, abbiamo solo 2 parrocchie in Italia, no? Il nostro servizio si manifesta nel mondo della comunicazione, quindi in un altro modo. E quando la domenica vado ad aiutare in una parrocchia, a volte ho davanti a me metà dei fedeli che non cantano. C'è il coro che canta benissimo, c'è il coro dei bambini e il coro degli adulti, tutti e 2 stupendi. Davanti a me ci sono i fedeli. Né il coro dei bambini né il coro degli adulti sono capaci di contagiare i fedeli. E a volte la tentazione è di dire fermi tutti e cerchiamo di mettiamoci un po' di calore, un po' di passione in questa celebrazione. Perché sennò dov'è lo spirito? E così anche la carità. Non è possibile che una comunità cristiana aspetti sempre le iniziative caritative del parroco. Ma dov'è la vitalità dello spirito nella comunità? E allora il segno del passaggio dello spirito è quando lo spirito suscita creatività in noi. Quando c'è calore, e questo calore non lo vediamo, non lo aspettiamo solo dal parroco come se la fiammella sia fermata solo sul suo capo, ma lo sentiamo su di noi. Quindi queste fiammelle che si separano e scendono su tutti devono rendere tutti protagonisti, tutti protagonisti. E infine il dono della comunicazione, no? Non è che gli apostoli si sono messi a parlare ebraico, latino, aramaico, erano le lingue di allora, non è che sono diventati poliglotti il giorno di Pentecoste, no, ma portavano un annuncio che era in grado di declinarsi nel modo adatto a coloro che erano davanti, cioè c'è una comunicazione che rispetta la diversità dell'altro e si adatta alla diversità dell'altro. Ecco, per noi oggi questo è vitale, un annuncio cristiano oggi, dove le comunità sono molto diverse, gli ambienti dove noi viviamo sono molto diversi, deve sapersi declinare nel modo adatto. Un modo è adatto per i bambini, un altro è adatto per chi ha già fatto un lungo cammino in un movimento, in una comunità parrocchiale, ma deve essere adatto anche al... Sono avuto un altro cammino di fede. Ora mi ritrovo a 56 anni con le mie sofferenze, non posso andare più in questo cammino, prego sempre con il breviario, mi dico le lodi, l'ora media, l'ora vespre, il rosario, però non sono più, e non ho più quelle forze come prima, quello zelo, ecco, che io correvo, andavo, quando c'era la parola, quando c'era, e facevamo anche atti di donazione, tante cose belle, che io ero felice. Non è che non sono felice, sono successi fatti della mia vita. Ora la coraggia qualche volta me la portano in casa e qualche volta quando io proprio mi sento sono pure diabetico, tante cosucce, padre. Bene, signora io Fina, la devi interrompere perché bisogna lasciare posto anche agli altri, poi stiamo un po' andando come dire, verso la conclusione del nostro momento, così mi dà modo un attimo di rispondere alla sua testimonianza. Prima di tutto grazie anche a lei per la sua testimonianza di vita, di fede, grazie per aver condiviso anche queste esperienze. Ecco, di fronte ad esperienze personali come quelle che l'hanno preceduto, ci vuole sempre molto tatto, per cui non entro nel merito delle singole esperienze che lei ha fatto. Le dico solo che il momento che lei sta vivendo adesso, dove forse queste esperienze a motivo dello stato di salute o altre cose, magari si sono messe un po' da parte, è il momento più prezioso, perché è quello che dimostra la veridicità di quello che lei ha sperimentato prima. Il dono delle lacrime che viene dallo spirito è un dono particolare, non è il pianto emozionato davanti a un testo della parola di Dio o la commozione che può anche essere sollecitata da una tazzina in più di caffè. È qualche cosa di più, qualche cosa di più profondo. Quando c'è l'azione di Dio che agisce dentro di noi, il pianto è accompagnato da una trasformazione di vita. La parola è efficace, l'abbiamo ascoltato, non nel brano di oggi. Tutti erano pieni di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. C'è subito una testimonianza che porta fuori. Quindi sono segni che richiedono grande discernimento e che non dobbiamo mai valutare da soli. Ecco l'importanza sempre della comunità cristiana. E mi sembra, insomma, che il suo percorso sia andato in questo senso, perché lei diceva: io ho avuto queste manifestazioni, poi il Signore mi ha donato un cammino di fede. È proprio così, cioè il Signore agisce nel singolo e lo porta sempre in una comunità, perché si faccia un cammino di condivisione che diventa anche un cammino di discernimento, di crescita, di accompagnamento condiviso. Quindi grazie per questa sua domanda. Le manifestazioni dello spirito possono essere come quelle che lei ha enunciato, però mi raccomando, non è che il nostro cammino di fede si misura sulla quantità delle manifestazioni che noi abbiamo. Il cammino di fede ha ben altra solidità. Grazie quindi di cuore per la sua domanda. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Salve. A lei. Sì, mi dica come si chiama. Allora, io volevo testimoniare prima in verità, credo in Dio, in Gesù Cristo e nello Spirito Santo. Volevo dire che io sto avendo tutti i giorni l'esperienza nello Spirito Santo, tutti i giorni con me, nel mio cuore, con la sua pace che mi sta donando, e dopo tanti anni che mi ero persa in questo mondo, e lo Spirito Santo si manifesta alle persone nel cuore pulito, puro, e col cuore che è buono, che si pensa veramente, poi si vedono tutti i prodigi, tutte le bellezze di Dio, Gesù e nello Spirito Santo. Mi sta aiutando tanto, questo volevo dire, mi sta aiutando tantissimo, perché la mia storia è molto molto molto lunga e non è facile, è travagliata da una vita che sbagliavo sempre, andavo a destra e a sinistra, però adesso mi ha fatto capire che la vera via è veramente Dio, Gesù e lo Spirito Santo. Dopo tanti errori, tante cose che mi sono successe brutte, Dio mi ha fatto comprendere che devo seguire le sue vie. Continuo. Grazie. Con lo Spirito Santo. Grazie per questa testimonianza, perché ci permette proprio di concludere la nostra trasmissione con l'immagine più forte, no, del brano di oggi, quello della testimonianza vivente. Come abbiamo ascoltato nel brano di oggi, la forza di questo incontro tra i Sadducei e Pietro e Giovanni è la profonda trasformazione dei protagonisti che sono sulla scena. Pietro e Giovanni, che da persone senza istruzione, senza grande preparazione, però sconvolgono per la franchezza del loro discorso. Lo storpio, perché colui che era mendicante ora danza, balla, entra nel tempio lodando Dio. E poi tutti quei 2000 che si sono convertiti di fronte alla parola di Dio e glorificano il Padre. Quindi tre grandi protagonisti dove lo Spirito riesce ad agire perché riesce a operare in loro grandi trasformazioni. E accanto a questi sono i sacerdoti, gli unici che riconoscono che qualcosa sta succedendo, ma che non riescono a cambiare. E quindi questi sadducei che restano, come dire, prigionieri dei loro pensieri. Loro volevano mettere in carcere Pietro e Giovanni, invece i veri prigionieri sono loro, prigionieri dei loro schemi, prigionieri dei loro pensieri, prigionieri della loro non voglia di cambiare. Su questo sfondo ringrazio quanti sono intervenuti, da Domenico di Potenza, Lello di Avellino, Gabriele di Torino, Antonio da Roma, Bianca, Giuliana, Pina e anche la nostra ultima ascoltatrice. E chiediamo insieme vicendevolmente la docilità all'azione dello Spirito, perché la sua opera di cesello del Cristo in noi possa continuare. Un caro saluto, una benedizione a tutti voi ascoltatori e ci risentiamo il prossimo mese. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.